Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, avete presente Damasco? Ecco, Blatter dà l'impressione di uno folgorato all'improvviso sulla via di Damasco. Stiamo parlando del presidente della FIFA, mi sembra comunque il signor Joseph Blatter di Visp, che è una ridente località svizzera nel Vallese, ai piedi di Zermatt, quindi non proprio un brutto posto. È un peccato non potervi offrire le registrazioni delle sue dichiarazioni di stamane a Johannesburg, perché prima o poi arriveranno, ma insomma per il momento bastano e avanzano i lanci d'agenzia. Ve li do in ordine, ve ne riferisco in ordine cronologico. Allora, il primo dice: il presidente della FIFA Joseph Blatter ha chiesto scusa a Inghilterra e Messico per gli evidenti errori degli arbitri che le hanno danneggiate negli ottavi di finale del mondiale sudafricano. Blatter ha detto che serve un nuovo approccio e che l'uso della tecnologia a supporto degli arbitri, in particolare sulla linea di porta, sarà all'attenzione della Federazione Internazionale a luglio a Cardiff. E questo era il primo. Il secondo, è ovvio, dice sempre Blatter, è ovvio che dopo l'esperienza fatta finora in questo mondiale sarebbe un non senso non riaprire il dossier sulla tecnologia per la linea di porta. Ieri, fa notare questo lancio dell'agenzia, cioè a caldo, il portavoce FIFA aveva detto che non era previsto alcun cambiamento della linea seguita e che l'errore era stato mandare sul maxischermo degli stadi il replay delle azioni incriminate. Terzo lancio. Sempre parole di Blatter: il calcio è un gioco dinamico e nel momento in cui c'è una discussione sul fatto che il pallone abbia o meno superato la linea, e quindi se sia gol, si potrebbe dare la possibilità alle due squadre di chiedere che venga esaminato il replay una o due volte, come succede nel tennis. Tutto ciò, ha ribadito Blatter, solo per risolvere il problema degli eventuali gol fantasma, perché per situazioni come quella della partita del Messico, e cioè il gol di Tevez in netto fuorigioco, non c'è bisogno di tecnologia. Avanti con Blatter, non potremmo mai cambiare adesso un mondiale in corso con 10 partite ancora da disputare, e ci mancherebbe altro, ma è chiaro che con tutto quello che è successo sarebbe assurdo non riaprire il discorso sull'uso della tecnologia. In linea di principio, è sempre Joseph Blatter che parla, in linea di principio posso già dire che ciò riguarderà l'uso che se ne potrà fare sulla linea di porta, magari tramite sensori. Se ne occuperà nella sua riunione a Cardiff in luglio l'International Board. Mi dispiace molto quando vedo errori di direttori di gara così evidenti, e ammetto che alcuni arbitraggi di questo mondiale non sono certo stati a 5 stelle, però sono cose che possono accadere e ciò non vuol dire la fine del calcio. Capisco che ci siano persone arrabbiate, per questo ho chiesto scusa a Inghilterra e Messico. Gli inglesi mi hanno detto grazie, hanno accettato le mie scuse. I messicani si sono limitati a chinare il capo e non mi hanno detto niente. Fin qui Blatter. Se non è questa una conversione in piena regola, più che una correzione di rotta, beh, allora insomma potremmo riparlare del significato delle parole. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Immagino che su questo argomento siate come sempre particolarmente sensibili. La Gazzetta dello Sport stamane ha lanciato una sorta di referendum proprio per l'introduzione delle nuove tecnologie e per darvi degli altri elementi di valutazione che facciano, come dire, da riferimento poi ai vostri interventi, volevo leggervi, tratti dalla Gazzetta dello Sport, alcuni interventi di personaggi particolarmente autorevoli in materia. Franz Beckenbauer dice, per esempio: vanno messi gli arbitri di porta come si è fatto per la sperimentazione in Europa League, e se non ci sono abbastanza ufficiali di gara allora bisogna attribuire più potere al quarto uomo, ridandogli il monitor e la possibilità di avvertire l'arbitro in caso di chiaro errore. Questo è il punto di vista di Beckenbauer. Il punto di vista di Falcao: dico no alla moviola in campo, passeremo da una discussione all'altra, si perderebbe troppo tempo, altro che partite di 90 minuti. Penso invece che un chip dentro a un pallone sia obbligatorio e soltanto così faremmo chiarezza sui gol fantasma. Alex Ferguson: non c'è bisogno di referendum tra allenatori e giocatori, credo che la stragrande maggioranza sia favorevole alla tecnologia nel football. Si dice che la visione del replay richiederebbe troppo tempo, ma a volte i portieri impiegano anche un minuto per calciare una rimessa dal fondo. All'arbitro basterebbe di meno per riguardare un episodio controverso. Arrigo Sacchi: La tecnologia va usata per dipanare le controversie più clamorose, ad esempio per stabilire un gol o non gol, per decidere quindi se il pallone ha oltrepassato del tutto la linea di porta. In questo senso sono favorevole. Se invece utilizzassimo la moviola per ogni caso dubbio, le partite rischierebbero di durare all'infinito come certi processi della giustizia italiana. Ecco, se io devo prendere... se devo adottare una di queste linee, una di queste opinioni, per una volta sono completamente d'accordo con Arrigo Sacchi. Ci sono già dei vostri interventi prenotati, non avevo dubbi, in materia, perché ripeto, questo è pane, no? In genere per... perché è un argomento popolarissimo. Giusto un altro paio di notizie, una mondiale e una un po' meno, nel senso che lo è solo in prospettiva. La notizia mondiale è che la quota del Brasile dopo il 3-0 di ieri sera al Cile è scesa da 4,50 a 3,50, mentre a 3,75 l'Argentina. Quindi insomma i bookmaker continuano a scommettere su una finale Brasile-Argentina in realtà. Sale la quota dell'Olanda, ma sale non perché ieri non abbia convinto contro la Slovacchia, sale da 7,50 a 8,50, 8,5, non perché non abbia convinto, ma perché dovrà trovare il Brasile nei quarti. Germania è identica, 8,5, perché deve trovare l'Argentina. La Spagna, in attesa della partita di stasera col Portogallo, di cui poi parleremo, è a 6. L'altra notizia, prima di arrivare all'argomento del giorno, è che Cesare Prandelli debutterà ufficialmente con la sua nazionale martedì 10 agosto allo stadio del Fulham a Londra, per un'amichevole il cui avversario verrà definito nelle prossime ore, ma quasi certamente si tratterà della Costa d'Avorio di Drogba. Il primo ascoltatore di oggi, Massimo, ha chiamato da Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io vi faccio complimenti per la trasmissione. Mm-hmm. Voi siete stati sempre coerenti nel portare avanti un certo tipo di discorso su Calciopoli. Mm. Però non vedo, a parte voi, altra stampa, altra TV, altre radio, che quando parlano adesso delle nuove intercettazioni usano lo stesso metodo che hanno usato nel 2006. Nel 2006 si è detto di tutto e di più, anche su cose che non, su intercettazioni che niente avevano a che vedere con lo sport. Adesso che si sono trovate altre intercettazioni, è uscito a galla un altro modo di fare, di altre squadre, ugualmente punibile dalla giustizia sportiva, vedo però che si cerca sempre di insabbiare, di fare in modo che non se ne parli. Alcuni giornali, non voglio fare il nome, di Milano, che addirittura ogni volta che c'è un'udienza nel processo di Napoli che va contro l'accusa, cercano di insabbiare, di non scrivere nulla. Perché tutto questo? Vorrei sapere solo questo. Guardi, io non mi domando come mai l'abbiano passata in onda oggi, perché sinceramente con tutto rispetto per le sue problematiche e per cosa, avevo lanciato un altro argomento che mi sembra di grande interesse popolare, anche perché è una battaglia per il futuro del calcio. Questa è una battaglia di retroguardia che avrà certamente prima o poi degli sviluppi, ma io preferisco attendere che ci siano, cioè si commentano le cose che ci sono e non si cerca di anticipare pescando nel torbido. Mi sembra che di fogne ne abbiamo frequentate abbastanza nel 2006. Se la giustizia sportiva dirà che ce ne sono altre purtroppo da visitare, le visiteremo a tempo e ora, non certamente come una gita di piacere. Torniamo in onda, ci sono altri vostri interventi prenotati, ci sono altre notizie che arrivano da Sudafrica in materia arbitrale. Per esempio il responsabile del dipartimento arbitrale della FIFA, lo spagnolo García Aranda, ha detto stasera prenderemo una decisione su Rosetti, ma insomma, credo che la decisione sia abbastanza scontata. In ogni caso non è ancora stata compiuta. Poi c'è l'arbitro svizzero Busacca, che è un ticinese, che sapete che oltre che essere un grande arbitro è un arbitro di lingua italiana. Ha raccontato stamane: ho fatto colazione con Rosetti, ci ho parlato, era sereno, mi sembra che abbia già metabolizzato l'errore, e del resto nel nostro mestiere può capitare. Roberto in linea da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, evidentemente Blatter ha deciso, forse si è svegliato, avrà preso un colpo, non dico di sole, visto che in Sudafrica siamo in inverno, ma mettersi finalmente a discutere se la palla è entrata o non è entrata usando la tecnologia, forse è viaggiare appaiati al fatto che non si può migliorare la tecnologia solo nei materiali per ritrovarsi con un pallone ingestibile come quello che c'è in Sudafrica e non sposare le altre cose, insomma. Forse adesso almeno uniformeremo la tecnologia da tutte le parti. Sì. Grazie Roberto, non abbia pazienza, mi ero distratto leggermente perché stanno arrivando le solite tonnellate di messaggi e ogni tanto mi distraggo per lustrare quello che arriva e non soltanto ad ascoltare quello che c'è in onda in quell'istante. Carlo Cosenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Guardi, io telefono solamente per testimoniare la mia indignazione per come dopo la sconfitta e l'uscita al mondiale Lippi e Cannavaro e gli altri hanno diciamo giustificato questa cosa qua, ecco. Non mi sento assolutamente di condividere, ma nemmeno una parola di quello che hanno detto riguardo alla nostra sconfitta, cioè è da due anni che non vogliono guardare in faccia la realtà e anche di fronte a un'uscita così grave non hanno assolutamente centrato il punto, l'obiettivo, non hanno assolutamente detto un minimo di verità, no? Continuano a mettere la testa sotto la sabbia. Questo mi ha indignato profondamente. Da appassionato di calcio, da italiano, no? Quindi una tradizione, no, da rispettare, una passione che veramente ci pulsa dentro, ma che non trova riscontro in queste persone, assolutamente. Va bene Carlo, io non riesco a capire come si possa restare indignati a distanza di giorni per una sciocchezza qual è una sconfitta in una partita di calcio, sia pure della nazionale, a petto, a fronte, no, di altre non sciocchezze che accadono nella vita italiana di oggi. Credo che la parola indignazione sarebbe finalmente ora di usarla in altre materie, di risparmiarla per quello che riguarda il calcio. Provo sommessamente a ricordare che non credo che né Lippi né Cannavaro né nessun altro componente della spedizione abbia fatto apposta a sbagliare, pur se di errori ne hanno commessi quanti le volevano. E ho ricevuto qualche mail interessante in questi giorni, facevano una riflessione che mi pare tutto sommato condivisibile. In fondo questi che adesso hanno, come dice lei, tradito, grosso modo, anche se non l'ha detto testualmente, ma insomma il concetto era ampiamente quello, sono gli stessi che 4 anni fa sono stati decisivi per vincere un mondiale. E allora dicono questi appassionati, dicono: beh, in fondo possiamo starci dentro, no? È vero che hanno fatto una figura pessima in questo caso, però in compenso erano stati la chiave del successo di 4 anni fa. Quindi se il prezzo da pagare per vincere un titolo mondiale ogni tanto è quello, la volta prima o la volta dopo, di fare una figuraccia, passi anche per la figuraccia. E tutto sommato mi sembra che ci possa anche stare come ragionamento. Da tifoso, no? Visto che lei ha parlato di tifo, ha parlato di orgoglio nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Giuseppe Ferrara, buongiorno. Oh, sono Garanzini, buongiorno. Dica. In base al gol non dato, sì, sia il portiere che i calciatori della Germania hanno visto che era gol. Ma dove è andata a finire l'onestà? Grazie e mi scusi, signor Garanzini. No, la scuso. Io credo che né il portiere né il giocatore della Germania abbiamo visto dove era finito il pallone. E poi comunque abbia pazienza, Giuseppe, cosa fa? Il portiere, la palla rimbalza fuori, l'azione ricomincia, continua. Cosa fa il portiere della Germania? Ammesso e non concesso, a parte il fatto che non ha visto la palla, perché lui si sta tuffando e non si tuffa ovviamente voltato all'indietro, con la violenza di quel tiro. Cosa fa? Si mette a seguire l'arbitro, lo scrolla per le spalle e gli dice: signor arbitro, guardi che quel signore lì aveva fatto gol. Ma dai, ma insomma, io capisco tutto, però allora viva il mio amico Smersi, viva il mio povero amico Smersi che ormai è morto da parecchi anni. Silvio Smersi era un grande, era un signor calciatore degli anni 50-60, era un parmigiano filosofo, oltre che buon pittore nel dopo carriera. Era uno che aveva delle. Ogni tanto aveva. Gli piaceva la tesi strampalata, ma ogni tanto aveva anche delle intuizioni assolutamente geniali. Una di queste, secondo me, a proposito di tecnologie, mi è tornata in mente ieri quando ho letto Blatter che diceva: noi non possiamo fare riforme tecnologiche perché creeremmo una discriminante tra il calcio ricco e il calcio povero. In altre parole, spiegava Blatter, le riforme, cioè le tecnologie costano e il calcio deve essere uguale dalla Coppa del Mondo alla più infima categoria, a parte la demagogia di questo discorso. Mi è tornato in mente perché Silvio Smersi, perché lui, ma 30 e passa anni fa, proponeva subito dopo la riga riporta di far scendere il terreno, cioè di creare, di mettere il terreno in discesa, intendiamoci bene, non la fossa delle Marianne e neanche una buca pericolosa, però c'è la riga riporta, poi c'è quel pezzettino di terra che equivale alla larghezza del pallone. Sapete che il pallone deve essere entrato tutto in porta perché sia gol. Allora, la riga di porta, lo spazio del pallone e subito dopo comincia la discesa con una pendenza neanche eccessiva che si può oltretutto studiare o far calcolare da qualsiasi bravo ingegnere, io credo, forse non occorre nemmeno la laurea. Ma in ogni caso, il pallone rimbalza in terra e qualsiasi violenza o effetto abbia, se becca la discesa, che ovviamente è verso il fondo della rete, fuori non torna più. Allora, dato che appunto, perché mi è tornato in mente? Mi è tornato in mente per mille una ragione anche sentimentali, ma perché credo che questa sarebbe un'altra risposta a Blatter, no? Se lui dice che costano troppo le riforme tecnologiche, beh, credo che in questo caso una pala, una vanga, no? e un po' di sudore siano compatibili come investimento un po' con tutti i calci del mondo. Questo per dire come ogni tanto, insieme alle auspicate e sacrosante tecnologie, ogni tanto possa saltar fuori dal passato, dal passato remoto in questo caso, un'idea secondo me geniale nel suo genere. Maurizio Pistoia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. E complimenti davvero sentiti per questa trasmissione. Grazie. Allora, finalmente Blatte si è svegliato, ha preso questa decisione. Ora si tratta solamente di vedere come applicarla correttamente. Avendo fatto l'arbitro per 20 anni, io ritengo che ci sono dei giocatori che però per spezzare il ritmo della partita vorrebbero questa decisione, vorrebbero veramente farla pro su. Io ho una proposta da fare, che per ogni partita il capitano della squadra ha due interruzioni, due time out per richiamare l'attenzione sull'arbitro e fare attuare il replay. Che ne dice di questo? Grazie per la trasmissione. Ma Maurizio, cioè io dico che vale tutto, nel senso che adesso appunto decideranno, attueranno, eccetera. Io non ho come questa grande passione per questi argomenti. Gliel'ho detto prima, mi intriga molto di più il colpo di genio, secondo me, o di fantasia in ogni caso, che ebbe quell'ex calciatore amico mio di cui le ho parlato prima, che non decidere tra il microchip piuttosto che la telecamera incorporata piuttosto che non so che cos'altro. L'importante è che si arrivi a stabilire quando un pallone è entrato o meno, perché nel 2010 è inammissibile che questo non possa accadere, è assolutamente inammissibile. Poi l'uso e l'abuso della moviola, tutto questo sarà questo è il vero oggetto del contendere, lo sarà a maggior ragione. Ma li cercate con lanternini i vostri ascoltatori di oggi, scrive a suo volta un ascoltatore. Beh, insomma, non li cerchiamo con lanternino, ma ogni tanto c'è un lanternino magico che, come dire, ci porta dei personaggi, come dire, di una gradevolezza alternativa, mettiamola così. Piero Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sono d'accordo con l'uso delle tecnologie per migliorare i giudizi degli arbitri. In generale ho visto che nell'NBA mi sembra che lo usino nel rugby pure, quindi senza che con questo le partite vengano distrutte, falsate, anzi a volte tendenzialmente aiutate. Sarebbe come se un giudice deve cercare la verità. o perlomeno qualcosa che gli assomigli, dovrebbe avere tutti gli strumenti a disposizione, non si può precludere quello che può usare. Lei allude a quelli che gli stanno levando adesso con questo, oppure cioè, c'era un'allusione greve sulla politica attuale o era... No. Su quello non mi schierei sacro e profano, se mi permette. Dov'è il sacro e il calcio, sia ben chiaro. Su questo si può anche discutere. Oggi parliamo di calcio, no? Sì, certo. A parte quello, io credo che... Cioè, non mi sembra che anche come si vede la Moviola... Cioè, cambiare una decisione palesemente sbagliata, perché l'ho visto... Se lo decide il giudice, non vedo che scandalo ci sia. Cioè, no, sarebbe come dire che... No, ma non c'è, Piero, non c'è alcun scandalo. Non c'è e non ci sarebbe alcun scandalo. Tutto sta a vedere quante volte Figliolo, in una partita. Figliolo, quante volte dobbiamo ricorrere, possiamo accedere a questo peccato tecnologico? È tutto lì. E credo che ne vedremmo delle ne vedremo o ne vedremmo delle belle. Beh, io sono sbalordito dal numero di ascoltatori che stanno rispondendo, osservando, intervenendo sull'idea di Silvio Sversi, che credo di ricordare che sia scomparso nel 2001, quasi 10 anni fa. Chissà la felicità che avrebbe oggi a sentire così divulgata e soprattutto così commentata questa sua idea apparentemente strampalata di allora, che oggi tra l'altro è stata ospitata anche da una, insomma, ha avuto anche l'onore di una vignetta sul Sole 24 Ore con una breve didascalia, perché insomma a me sembrava, in questo alto dibattito ipertecnologico, mi sembrava un motivo, no, di ritorno, non al passato, ma insomma di ritorno, un contrasto comunque sensazionale. Allora Fabio scrive: il fossato, adesso vi leggo un bel po' di messaggi, ma proprio tanti, anche perché come sempre ho l'impressione che tra chi scrive e chi... no, come sempre no, ma come spesso accade, tra chi scrive e chi parla c'è quel tantinello di... Fabio scrive: il fossato bisogna farlo, gli zappatori tra italiani e francesi non mancano, dobbiamo solo comprare le vanghe. Così i portieri si slogherebbero le caviglie. No, questo non credo, caro. Un altro, anche Omar Bologna, dice: bella e romantica teoria, ma le caviglie dei portieri non sarebbero d'accordo, perché il portiere deve stare fuori dalla linea di porta. Se il portiere sta dentro la linea di porta è un problema, non solo, ma ho già detto anche che ci sarebbe lo spazio del pallone oltre la riga, e quindi non vedo perché i portieri dovrebbero farsi del male. Oltretutto si tratterebbe, ripeto, di una pendenza minima sufficiente da calcolare ovviamente per non far uscire il pallone. Giorgio Da Luca dice: molto carina l'idea della porta in discesa, ma non risolverebbe il gol non gol a mezz'aria. Questo è certamente vero, questo varrebbe soltanto per i tiri che entrano ed escono e che rimbalzano per terra, che però sono i più clamorosi, perché sono quelli che finché rimane mezz'aria c'è perlomeno un ragionevole dubbio. Se è come domenica, che vedi il pallone stampato quasi un metro dentro, è ben diverso. Poi sempre sto cercando altri messaggi. Piccolo problema per la discesa dopo la riga: quando la palla non batte in terra. Esatto, beh, di nuovo questo. Un genio il suo amico calciatore, scrive Michele da San Giovanni in Marignano, ma ancora più genio lei, vabbè, sta esagerando a far balenare l'idea di Blatter con una vanga in mano. Io per la verità non l'ho detto, ma insomma non ci starebbe malissimo. Comunque, braccia strappate all'agricoltura. Io un'idea su a chi dar la palla e la vanga l'avrei, ma non necessariamente sarebbero dei calciatori, scrive Mauro Caratti da Acquiterme. Vabbè, non posso andare avanti tutto giorno. Dunque, l'idea del solco dietro la porta è semplicemente geniale, scrive Carlo da Como. E credo che altre arrivi. Piero scrive da Cassano: il signor Smessi era veramente un personaggio illuminato. Io farei recapitare l'idea del terreno inclinato a Blatter. Io invece ripasserei un pochino la storia del mondiale, affidandone come sempre la ricostruzione. Stiamo parlando del giorno 29 giugno, cioè cosa è successo nella storia dei mondiali del 1930 a oggi, il giorno 29 giugno, ci pensa Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 giugno 1986. L'Argentina di Diego Armando Maradona è campione del mondo. A Città del Messico i sudamericani superano per 3-2 la Germania Ovest al termine di una sfida densa di emozioni. L'Argentina si era portata sul 2-0 con Brown e Valdano, ma aveva subito, tra il 74esimo e l'82esimo, la rimonta tedesca con le reti di Rummenigge e Föller. Il gol decisivo, quando la gara sembrava ormai avviata ai supplementari, lo realizza l'88esimo Buruciaga, al termine di una fuga di 40 metri innescata da un assist del solito Maradona. E questo è il grande anniversario, evidentemente, del 29 giugno, perché è un titolo mondiale per l'Argentina, e insomma, e che titolo mondiale. Nello stesso giorno, il 29 giugno, per esempio nel 50 a Belo Horizonte gli americani batterono gli inglesi 1-0, ed è questo tuttora uno dei risultati più incredibili della storia dei mondiali, perché gli inglesi erano al loro debutto in un mondiale, non avevano mai giocato nell'anteguerra perché non si erano degnati di misurarsi con dei paria. Questa era grosso modo la loro alterigia calcistica del tempo. Altra finale nel 58, il 29 di giugno a Stoccolma, 5-2 Brasile-Svezia, con quel gol d'apertura di Lidholm, del grande Nils Lidholm, che aveva illuso gli svedesi, e poi il diluvio guidato da Garrincha più ancora che da Pelé, ma insomma anche Pelé fece la sua parte. E infine il 29 giugno dell'82 comincia la marcia trionfale dell'Italia al Sarriá, quando l'Italia batte 2-1 l'Argentina con i gol di Tardelli, Cabrini e poi la punizione finale di Passarella. Due ascoltatori, Alessandro ha chiamato da Salerno, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, sempre sulla questione degli errori sui gol convalidati e non convalidati, volevo fare una mia riflessione, perché è da diverso tempo che su alcuni forum sulle scommesse calcistiche è stata ventilata l'ipotesi di fare una class action contro la FIFA da parte degli scommettitori, soprattutto in presenza di questi errori così grossolani e che poi vengono dimostrati con la prova televisiva, perché molti scommettono o sull'esatto numero di gol o sul risultato della partita. Volevo sapere un suo pensiero. Grazie. È meglio che non glielo dica, Alessandro, è molto meglio, facciamo così. Io resto a Smersi, al mio amico Silvio Smersi, che continua a ricevere purtroppo postume, ma insomma tante congratulazioni per quella sua idea di tantissimi anni fa. Smersi era un personaggio leggendario, poi un giorno, quando magari cambieremo formula, vi racconterò di lui e di alcuni altri che un tempo, come dire, prendevano il calcio leggermente meno sul serio di quanto non si prenda oggi, pur avendolo giocato e avendolo giocato ad alto livello. E se avessero sentito come adesso, a proposito di calcio e di scommesse, la parola class action, avrebbero certamente avuto un'eruzione con la U, mi raccomando, un'eruzione cutanea, ma proprio fulminante, di quelle istantanee. Riprenderei fiato prima del prossimo ascoltatore, non per mancargli di rispetto, ma così per la casistica odierna, e sentirei il commento di Maicon di ieri sera sulla prospettiva brasiliana di dover affrontare l'Olanda nel quarto di finale. Tutte le partite, quando si parla di mondiale, sono partite difficili. Contro l'Olanda sarà un'altra. Adesso studiamo bene questa squadra, quello che fanno di meglio e di peggio per approfittare. Speriamo di passare questo turno ancora. Islanda è un grandissimo giocatore, ha dimostrato questo in Italia come all'Inter, però ci sono tanti. C'è una squadra fortissima a centrocampo con Van Bommel, con De Jong. Sono grandissimi giocatori che dobbiamo fare moltissima attenzione. Abbiamo fatto sempre quello che lavoriamo. A volte non riusciamo a fare le belle partite, però alla fine il più importante è sempre vincere. Oggi magari abbiamo fatto un po' più meglio delle altre partite, ma il più importante è che alla fine siamo passati questa tappa. Ascoltatore, sono appena tornato da un viaggio in Patagonia, ho acceso la radio in autostrada e ho trovato il primo ascoltatore che parlava di calciopoli. Ero convinto si giocassero i mondiali di calcio. Mi sono perso qualcosa? Domanda questo ascoltatore che ha appena scritto, che è Paolo da Bergamo. No Paolo, non si è perso assolutamente niente. È qualcun altro che si sarà perso 4 anni perché è rimasto con l'orologio fermo, ma non vedo quale sia il problema suo. Andrea da Firenze dice, si mette nel solco di Smersi, e dice: e cosa ne penserebbe di rivestire di potentissimo velcro il pallone e il terreno dietro la porta? Io resterei a smersi, si sta complicando un pochino, però non è escluso che da qui a domani, da qui ai prossimi giorni, l'ufficio brevetti magari non si metta in ascolto e non salti fuori prima o poi l'idea giusta che rivoluzionerà la storia del calcio mondiale. Michele da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Antonio Garanzini. Dica. Io volevo riportare la cosa così, vista un po' da monte. Della questione tecnologia o meno, per verificare questo. In fin dei conti, chi ha giocato a calcio dal campetto di periferia al prato più vellutato dei mondiali sa che il calcio è fatto da un pallone, dagli 11 in campo e dall'uno o due o tre in più che sono quelli che fanno, tra virgolette, il lavoro sporco dell'arbitro o di chi giudica. O teniamo il calcio come un fattore umano, è uno sport che è fatto da un fattore umano, altrimenti il passaggio al chip, alla barriera laser, a tutto quello che potremmo pensare che la tecnologia ci può fornire, porterà tutto questo fuori. Ed è qui che mi piace moltissimo l'idea, può essere una provocazione, del calciatore pittore, perché la fossa non è altro che il palo e la traversa. Il pallone rimbalza, entra, esce o rimane dov'è o lo paro. Finito, è un fattore fisico, umano, che io ho visto perché ero il portiere, lei ha visto Carazzini perché era l'arbitro, chi sta ascoltando ha visto perché era l'ala destra. Chiuso. L'elettronica prima o poi, come nell'auto che sto guidando, ci lascerà a piedi. Basta, grazie. Grazie a lei Michele. Beh, sentimentalmente sono con lei. Lo spirito deve rimanere questo. Il calcio è un gioco talmente. Quando sento parlare o leggo di rugby, di basket, di queste cose, con tutto rispetto, però io dico che il calcio è un gioco talmente più bello dal mio punto di vista, è talmente più universale, che gli interventi come il suo sono personalmente più graditi. Però io non lo condivido fino in fondo, perlomeno, nel senso che qualche limite va posto, e ripeto, nel 2010 il pallone che entra o non entra, insomma, almeno questo si deve sapere. Se da lì in avanti la penso, ripeto, per una volta nella mia vita la penso come Arrigo Sacchi, e cioè la tecnologia va usata solo in quello. La pensa anche Beckenbauer, per esempio, insomma, non è che siamo proprio in una compagnia così scarsa o così poco autorevole, tutto sommato. 7 milioni e mezzo di persone ieri sera per Brasile e Cile su Rai 1, più tutti gli ascoltatori di Sky, e insomma, che evidentemente è un bel numero, vuol dire che il mondiale continua ad appassionare tutti. Allora, l'idea di smersi sta facendo proseliti. Marco da Bergamo scrive: una pozza di pece dietro la linea, la trovo un po' eccessiva. Una pozza bassa d'acqua dietro la linea di porta, scrive Ivan D'Alecco. Della terra rossa dentro la porta, scrive Edoardo da Milano. Terra battuta dietro la riga, scrive Paolo, sempre da Milano. Io resto col mio vecchio amico Silvio Smersi. E non c'è bisogno di materiale, basta una pendenza. Non vorrei che già in collegamento con noi dal Sudafrica Fabio Tavelli stesse pensando a un colpo di sole. Ma in effetti mi stavo domandando di cosa tu stessi parlando. Del terreno, della vecchia idea di un mio caro amico, purtroppo scomparso parecchi anni fa, che è stato un signor calciatore. Un parmigiano, si chiamava Silvio Smersi, che sosteneva che dopo la riga di porta e dopo la larghezza del pallone, da lì il terreno dovrebbe essere fatto a scavo in discesa verso il fondo della rete, in maniera da impedire che il pallone, quando rimbalza, esca, qualunque effetto abbia. Però può diventare un problema nel caso in cui in qualche mischia con di incolumità, dici? No, non le fossero le Marianne, quello chiaro, cioè, però una lieve discesa. Hai presente la scena di Quagliarella che finisce in porta? Fantastico, così imparano a fare i fenomeni, no? Se così invece di, no? Tutti quelli che vanno a fare le scene o le risse cose, sanno che finiscono anche in buca e magari ci pensano due volte. Ma quella è un'idea. Questa potrebbe essere una variabile. Senti Fabio, io stamattina, adesso ho appena letto tutte le agenzie di Blatter che sono arrivate da lì, da Johannesburg e tutte queste cose, però ne sto leggendo altre due o tre di segno molto diverso, e cioè continuano i furti in Sudafrica, ma nessuno, mentre i primi tempi, insomma, diciamo che le vittime di questi furti o di queste cose erano come dire, più borseggiabili, hanno rubato nella sede della FIFA a Johannesburg. Questa è l'ultima che sto leggendo sul video. Hanno rubato, insomma, in un sacco di altri posti, delegazioni ufficiali, eccetera. Cosa vuol dire? Che il mondiale, andando avanti, sta un po' cedendo dal punto di vista della, come dire, sicurezza, oppure che i ladri nel frattempo hanno affinato le tecniche? Ma non lo so, secondo me un po' noi stiamo abbassando la guardia, nel senso che dopo 25 giorni un po' di stanchezza sta arrivando, certo. E con tutta probabilità nei primi giorni abbiamo avuto la sensazione di essere in un posto più sicuro di quello che ci avevano dipinto, quindi no, non escludo che ci sia un po' di lassismo anche da parte nostra. Ti dico solo che qui all'International Broadcast Center, da dove ti parlo, i primi giorni la questione sicurezza era affrontata in maniera molto allegra, nel senso che qualcuno entrava senza pass. Un'altra cosa, al contrario che in Germania e anche in Corea, non c'è l'omino con quella specie di pistola laser che colpisce il chip che c'è sul tuo accredito e che gli dà la segnalazione se il tuo accredito sia vero o falso. Cioè, se tu fai una fotocopia di un accredito, la fai ben fatta a colori e te la metti in una bustina, puoi entrare tranquillamente e nessuno se ne accorgerà mai. E mentre invece negli ultimi giorni la security è cambiata, perché c'era stato un problema all'inizio del mondiale, c'era stata una sorta di sciopero, una piccola rivolta da parte degli steward e degli uomini della security, l'organizzazione ha cambiato la security, adesso la security la fa direttamente la polizia, quindi almeno qui all'IBC c'è un po' più di controllo, però ti assicuro che non è una cosa particolarmente pressante, al punto che dopo i primi giorni noi, quando abbiamo visto un minimo inasprimento di controllo, ci siamo quasi infastiditi, certo. dimenticandoci di dove i controlli li fanno davvero. Certo. Fabio, siamo all'ultima giornata degli ottavi di finale e io personalmente sto continuando a vedere un mondiale tra i migliori delle ultime edizioni. Adesso è presto ancora. Sono per d'accordo. Dire... ecco, mi fa piacere. Se non i migliori in assoluto delle ultime, ma di parecchie edizioni, tra i migliori certamente. Poi è vero che i mondiali vengono ricordati in genere per le semifinali e le finali, o al massimo dai quarti di finale in poi, no? A meno di partite epocali prima. Però la qualità mi sembra quella. A parer tuo, la manteniamo anche oggi con queste ultime due sfide? Ma guarda, io dico di sì convinto, nel senso che sono certissimo che questa sera vedremo una bella partita. La vedremo bella perché comunque la Spagna giocherà bene, perché la Spagna sa giocare solo bene, quindi anche quando perde qualcosa fa vedere. Non butterei via nemmeno Paraguay-Giappone oggi, soprattutto per il Giappone, che mi sembra una squadra capace di dare delle accelerazioni improvvise e che possa mettere anche in difficoltà il Paraguay. Quindi tutto sommato, anche se è l'ottavo di finale meno nobile, è un ottavo di finale che mi guarderò con estremo interesse. La partita di stasera secondo me è un partitone, perché comunque stiamo aspettando Torres al gol, stiamo aspettando un Cristiano Ronaldo un po' più stella, stiamo vedendo un centrocampo fantastico da parte del Barcellona, della Spagna, che si permette, il lapsus è freudiano, ma sì, fino a un certo punto, che si permette di lasciare fuori Fabregas e di far giocare Busquets a fare il pivote davanti ai quattro della difesa. Mi pare che, insomma, la partita di oggi ha maggior ragione, poi per il fatto che andrà poi a completare un tabellone da quella parte davvero interessante, sia un qualcosa di bello, insomma. Se la Spagna arriverà in finale avrà dovuto superare il Portogallo e poi andrà a pescarsi una tra Argentina e Germania, e quindi, insomma, mi sembra che anche se ci sono due parti più difficili del tabellone rispetto ad altre due, comunque non mancheranno i grandi avversari. Cioè, abbiamo visto degli ottavi di finale, stiamo assistendo degli ottavi di finale che potrebbero essere tranquillamente delle semifinali o addirittura finali. La domanda conclusiva, che così abbiamo ancora spazio per almeno un ascoltatore alla fine, per dargli, visto che oggi li abbiamo sollecitati in maniera particolare, la domanda conclusiva è questa: adesso, a distanza di un po' di giorni, no, dall'eliminazione del Sudafrica, com'è il termometro della passione popolare? Cioè, è davvero calato di molto? È rimasto? Com'è? No, è calato, è certamente calato, nel senso che non si vedono più le auto con le bandiere esposte, con queste piccole, chiamano copri specchietto retrovisore, che praticamente una macchina su due ce l'aveva, sia lo specchietto retrovisore destro e quello sinistro, con i colori del Sudafrica. Lo vedi e te ne accorgi dai titoli dei giornali, dalle prime pagine e da tutto il resto. Però resta il fatto che ci sia ancora il Ghana in corsa a dare un po' di calore. Calore purtroppo non ce n'è più dal punto di vista meteorologico, perché il tempo è cambiato in peggio qui a Johannesburg, da due giorni il sole non l'abbiamo più visto. Però è vero che l'eliminazione dei Bafana Bafana ha molto abbassato la temperatura. Ti dico solo questo: stamattina ho fatto un giro in bicicletta a Soweto e a un certo punto abbiamo incontrato una signora anziana, la quale ha salutato tutto il gruppo e poi ha detto: vi state divertendo nella World Cup? E ovviamente gli abbiamo detto tutti di sì, e lei ha detto una roba tipo: vabbè, sono contenta che vi state divertendo e sono contenta che i francesi siano andati a casa. ovviamente c'erano due o tre ragazzi francesi con noi che hanno sorriso per cortesia e per bon ton, però l'idea che la Coppa del Mondo sia entrata anche nelle parti più remote di Soweto e anche nelle parti che magari, per quanto riguarda questa signora anziana, mai e poi mai si sarebbe sognata di mettersi a parlare di calcio con degli ospiti stranieri, no, dimostra il fatto che la Coppa del Mondo un valore forte l'ha avuto. Certo. Grazie Fabio, a domani. A voi, a domani. A domani. Daniele ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno a lei, intanto complimenti, perché oltre ad essere competente è una persona a modo, quindi complimenti. Una cosa, per quello che riguarda il gol dell'Inghilterra, sì, se ci fosse stato un terreno tipo il terreno da tennis, dove si fosse visto rimbalzo della palla, sarebbe stato già risolto in maniera molto semplice, con un terreno fatto apposta dove si può vedere il rimbalzo della palla. Quello può essere un'idea così. Ma non credo, sa Daniele, perché il problema, cioè il problema non è che lo veda lei da casa o lo veda il pubblico o lo veda, cioè il problema è che lo veda l'arbitro a guardalinea, cioè a quella velocità col pallone, che se il pallone torna fuori non si risolve quel problema lì. Sul terreno che ha rimbalzato dentro c'è l'impronta, tutto qua. Ma cosa fai? Però bisogna sempre fermare il gioco, andare a vedere se c'è. Certo, se c'è lì. L'arbitro ferma il gioco, no? Fischia. Certo. L'azione nel frattempo è ripartita e magari la Germania fa gol. Magari la palla non è entrata e la Germania poteva andare a fare gol in contropiede. Non è così semplice, mi creda. Non, se ci sono state e continuano ad esserci tante resistenze all'uso della tecnologia, è perché il calcio non è fatto dai biscardi, ragazzi. Il calcio si gioca davvero sul campo e io credo che il primo parametro da rispettare, quello che hanno in testa i Beckenbauer, i Sacchi e i Platini e questa gente che la pensa così, è proprio il fatto di non snaturarlo il calcio, di non mancare di rispetto alla dinamica stessa del gioco, e questo credo che sia un problema da tenere molto ma molto presente. Ho parlato, questo è il finale di Blatter di stamattina, ho parlato dell'uso delle telecamere, ma ho anche detto che a volte le stesse telecamere non possono vedere cosa è successo sulla linea di porta. Cosa fa? Sta tornando indietro da Damasco anche Blatter? Le regole del calcio stabiliscono che ci debba essere un arbitro, ma non dicono esattamente quanti debbano essere gli assistenti, quindi non ci sarebbe bisogno di modificare il regolamento nel caso che si aggiungessero degli altri assistenti ancora. Forse sta andando sulla linea di Platini. L'uomo è confuso, secondo me. L'uomo ha subito un trauma molto ma molto serio domenica sera e sta stentando a riprendersi. Lo seguiremo nei prossimi giorni. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a In regia si sono alternati oggi Pietro Lacorte e Carmelo Lauricella. Grazie a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio. A tempo di sport.